Ehi, psst, ehi, buongiorno, sveglia, sveglia, sveglia, sveglia! Benvenuti all'Early Bird Special. Aloha, Early Bird Special. Questa è la prima colazione che serviamo qui, dalle frequenze di Rock FM. Io sono Chuck Bird, tutte le mattine dalle 6 alle 7, con la grande musica di Rock FM e con qualche chiacchiera sulla vita delle rock and roll star preferite da voi, ascoltatori. E allora, passerottine e passerottine, com'è questo lunedì? È dura, eh? Ma insieme ce la faremo. Dopo Jethro Tull, Minstrel in the Gallery, i Clash, Guns of Brixton. Your hands on your head, on the trigger of your gun. cruising, but you'd have to answer too. Gansall Brixton cantava Paul Simonon, che di solito suonava il basso e basta. I Clash all'Early Bird Special di questo lunedì 29 ottobre. Ho un sacco di passerottini e di passerottine mi dicono si recano al lavoro in autobus con le loro brave cuffiettine e la radio sintonizzata su Rock FM. Bravi e brave. A voi auguro prima o poi di salire su il Magic Bus. Every day, just to drive to my baby. From 10, 6 months each day. Oh, magic bus. Too much magic bus. Too much magic bus. The Who, a Lurly Bear Special. Oh, le band agli esordi spesso cercano di guadagnare popolarità chiedendo a gruppi già affermati di poter aprire ai loro concerti. Pensate che anche artisti diventati in seguito più che importanti per la storia della musica rock hanno accettato agli inizi della loro carriera di suonare per poche decine di minuti prima degli headliners. È accaduto anche a Jimi Hendrix, che aprì i concerti dei Monkees. Non crediate che il pubblico abbia apprezzato, anzi. Anche gli Aerosmith hanno cominciato così. Il loro primo tour lo fecero come opening act della Mahavishnu Orchestra, il supergruppo composto da John McLaughlin, Jan Hammer e Billy Cobham. Il genere della Mahavishnu Orchestra era molto particolare, un suono potente ma meditativo. Una vera sfida per gli Aerosmith. Beh, un concerto fu particolarmente imbarazzante. E in giro ne esistono anche delle registrazioni. Alla fine delle canzoni si sentono i clap clap del pubblico come se andassero a rallentatore. E già dopo la prima canzone degli Aerosmith si sentiva il pubblico cantare in coro Mahavishnu, Mahavishnu. Roba che avrebbe fatto innervosire un monaco buddista. Subito dopo si imbarcarono per un tour di supporto a Ray Davies, componente fondatore dei Kinks, che sistematicamente, invece che Aerosmith, li chiamava Harry Smith e non lasciava la band di Steven Tyler neppure lo spazio per eseguire il loro soundcheck. Loro accettarono di buon grado, visto che erano tutti fans dei Kinks. Beh, alla fine del tour, grazie alla popolarità guadagnata, gli Aerosmith passarono da un cachet di $300 alla mirabolante cifra di $1,500 a sera. Da lì a poco quei 1,500 basteranno a malapena ai due Toxic Twins, cioè Joe Perry e Steven Tyler, a pagarsi la cocaina per una serata. Eccoli gli Aerosmith, o Aerosmith come diceva Ray Davies, in versione acustica con Crazy. Come here, baby. You know you drive me up a wall the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad looks good. Tough and try to tell me that it's time to go. What can I do, honey? woke up this morning, people, looked round for my shoes. You know I had those mean old walking blues. Woke up this morning, looked round for my shoes. Yeah, yeah. You know I had those mean old walking blues. You know some people tell me word blues ain't bad. It's the worst old feeling child ever had. People tell me word blues ain't bad. Yeah, it's the worst old feeling woo, child I ever had. Yeah, the brooks run to the ocean. Battlefield, l'Early Bear Special. Ehi, hey, è lunedì e i nostri motori sono ancora tutti da scaldare. Fate attenzione ad attraversare la strada, potrebbe passare Alice Cooper e mettervi sotto le sue ruote. Driving right up to you, babe. Got you under my wheels, I got you under my wheels. Alice Cooper, grandissimo, Under My Wheels, a Lurly Bear Special. Questa è la prima colazione servita da Rock FM. Io sono Chuck Bird e con me nel crepuscolo della stazione radiofonica preferita da tutti voi passerottini e passerottine c'è solamente la Dolce Cherie, che è incredibile ma vero, anche a quest'ora del mattino è elegantissima con il suo tailleur e ancora più elegante con la mia tazza di caffè nero bollente. Grazie, Cherie.